rifugiarsi nel mito per non affrontare la realtà. Questo pensa e scrive Stefano Folli e in molti con lui, peraltro, ma ovviamente non tutti sono d'accordo. Lo Stato di Padania? Potrebbe anche essere, dice per esempio il sindaco di Treviso, segretario della Lega in Veneto, Gianpaolo Gobbo, ospite di 24 Mattino su Radio 24, dice: se l'Italia ha 150 anni, noi veneti abbiamo 1000 anni di storia con la Serenissima. Non vedo perché ci sia da irridere questa cosa. Punto e a capo. Intanto nel mondo, allora, se in Italia si parla da qualche parte di secessione, Standard & Poor's taglia i rating dell'Italia. Dagli Stati Uniti, martedì mattina, Mario Platero. Standard & Poor's ha dunque deciso di muoversi in anticipo rispetto alle altre agenzie per la valutazione del credito, ha ridotto il nostro voto, il voto attribuito al debito italiano, da A più ad A, una diminuzione non particolarmente forte, ma molto importante sul piano del messaggio politico e soprattutto sul piano del messaggio finanziario. I mercati asiatici hanno già reagito, l'euro è diminuito dello 0,5% negli scambi in corso fino a poco fa e dunque le pressioni sull'euro aumentano. L'Italia non è la Grecia, stiamo parlando della terza più importante economia europea, dunque le pressioni aumentano sul nostro paese, ma le conclusioni di Standard & Poor's sono molto chiare: c'è una debolezza politica, il governo non è in grado di prendere le misure necessarie, c'è una debolezza di fondo dell'economia, non ci sono prospettive di crescita e soprattutto il nostro debito resta ancora preoccupante rispetto a quello che dovrebbe essere per rimetterci in carreggiata. Restare in Europa a tutti i costi, in fondo questo è uno dei nuovi tabù giovani nella nostra cultura, ma è il tema affrontato nella puntata di martedì mattina da Oscar Giannino. Cita alcuni report di banche internazionali sui costi dell'uscita dell'Europa e, come dire, sottopone, offre la riflessione a Roberto Perotti, docente di economia alla Bocconi di Milano. Uscire dall'euro ha i suoi costi, in dubbio. E il costo principale, che secondo me è difficilmente quantificabile, è semplicemente, per chi se lo ricorda, è andare indietro agli anni Ottanta, cioè pensare a vivere con l'inflazione al 20%, con tutto quello che ne consegue. Quello che ne consegue è anche la politica fiscale che era impazzita, perché ricordiamoci che i nostri problemi sono nati allora, quando si pensava di poter dare tutto a tutti e gratis, e per far questo si è accumulato un debito pubblico enorme. Quindi il grande vantaggio dell'euro, inutile che ce lo nascondiamo, è che ha dato disciplina alla politica monetaria, fortunatamente, portandola a Francoforte e togliendola a Roma, e all'Italia, non a Roma in quanto Roma, diciamo, togliendola all'Italia, ha dato disciplina anche alla politica fiscale. Io condivido in pieno questo giudizio, non sono tra i nostalgici, viva la disciplina, non so qual è la politica monetaria, ma avremo bisogno di più disciplina nella politica fiscale. Oggi il professor Forti sul Sole fa il conto di quello che chiama il sacrificio intero lordo degli italiani. Sono 500 miliardi di euro di tasse in più pagate negli anni, eccetera, e non sono bastate. E ora da Focus Economia, invece, sentiamo la voce dei cattivi. Di chi sto parlando? Ma delle agenzie di rating, naturalmente, che da quando, anzi che quando mandano comunicati stampa positivi, vengono usate, citate come la Bibbia, ma quando dicono che le cose non vanno affatto, diventano organi del complotto. Allora sentiamo il punto di vista di Standard & Poor's Italia, portato da Maria Pierdicchi. Vorrei ricordare che la nostra è una valutazione assolutamente apolitica, è una valutazione sull'affidabilità finanziaria basata su elementi tecnici e analitici. Il nostro compito non è dire cosa un paese deve fare o quali sono le politiche giuste, ma semplicemente vedere ogni politica che effetti ha sulla capacità di rimborso e solo su quella, quindi sull'affidabilità finanziaria. Ci sono 5 aree di analisi per un rating sovrano. Uno è il rischio politico, quindi il rischio politico inteso come la capacità di portare a termine le azioni che un governo deve fare per governare l'economia. L'altra è la struttura economica del paese, poi c'è la liquidità esterna, la posizione verso l'estero, il debito,

Ecco dunque il punto della settimana italiana, ma parliamo adesso della Grecia, che vive addirittura da molto prima dell'estate settimane che sono drammatiche. Nel corso di questa settimana invece il governo Papandreou ha preso delle iniziative che sono davvero un nuovo passaggio molto importante, la rottura di un nuovo tabù sociale. Sentiamo. Atene ha rotto un tabù, metterà in mobilità 30.000 dipendenti pubblici entro la fine dell'anno. La manovra varata ieri riduce anche del 20% la pensione sopra i 1.200 euro e taglia retroattivamente i trattamenti pensionistici agli statali che hanno lasciato il lavoro prima dei 55 anni. Sono decisioni forti che hanno già provocato la reazione dei sindacati, che hanno annunciato due giornate di sciopero generale. Ora il premier Papandreou si recherà a Berlino per discutere con il cancelliere tedesco Merkel i dettagli per il nuovo piano di aiuti, ma la situazione è decisamente migliorata. Atene ha deciso di fare sul serio. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Atene. La Grecia dunque, la Grecia degli scioperi generali, degli autobus, delle metropolitane, dei treni fermi, giovedì ad Atene nello sciopero di 24 ore. Ecco, se Atene, come abbiamo detto, trema, è vero anche che a Parigi lo stesso giorno, cioè il giovedì, tremano le banche francesi. Marco Moussanet dalla capitale francese. Un'altra giornata nerissima per le banche francesi. Nell'ultima seduta Société Générale ha perso il 9,6%, Crédit Agricole il 9,5% e BNP Paribas il 5,7%. Nell'ultimo mese il calo è compreso tra il 19% e il 25%, negli ultimi tre mesi tra il 54% e il 58%, ben più dell'indice delle banche dell'Eurozona. A pesare su Société Générale è una diffidenza del mercato che non è praticamente mai cessata dall'affare Kerviel, il trader che fece perdere 5 miliardi alla banca nel 2009. Molti investitori ritengono che la riconversione verso un maggior peso delle attività commerciali rispetto a quelle più speculative sia ancora insufficiente. BNP e Agricole sono penalizzate dall'elevata esposizione nei confronti del debito pubblico italiano, rispettivamente per oltre 20 e poco meno di 9 miliardi. Su questi elementi di fondo si innestano voci sempre più insistenti di una ricapitalizzazione forzata o addirittura di una parziale nazionalizzazione. Marco Moussanet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Punto e a capo. È di 3 morti il bilancio dell'incidente stradale che ha coinvolto una pattuglia di soldati italiani a Herat, in Afghanistan. È accaduto ieri. E il generale Massimo Fogari, portavoce dello Stato Maggiore della Difesa, ha spiegato che si è trattato di un incidente stradale. L'incidente ha poi confermato il portavoce del contingente Marco Amoriello, portavoce proprio di Herat, ha spiegato che è avvenuto durante uno spostamento. I tre militari erano a bordo di un Lince, appartenevano ad un'unità affiancata all'esercito afghano, si stavano muovendo verso il comando italiano. Insomma, un mero incidente stradale che tragicamente porta a 44 il numero dei militari italiani morti nella missione ISAF. E noi ritorniamo invece a quanto accaduto in aula. In aula mi riferisco alla Camera, dove questa settimana c'è stata la grande attesa per il voto poi arrivato sulla richiesta di arresto avanzata dai giudici napoletani nei confronti di Marco Milanese, deputato del PDL, ex consigliere politico del ministro dell'economia Tremonti. L'Assemblea, come sapete, ha confermato il parere della Giunta, negata dunque l'autorizzazione. Lo scrutinio elettronico e segreto si è concluso con 309 voti favorevoli e 305 contrari. Una vicenda su cui di nuovo si è messo, diciamo, sul tavolo la tenuta del governo, con grandi contenuti, forti contenuti politici e grandi lacerazioni connesse. Marco Milanese viene salvato dagli arresti alla Camera, ma Silvio Berlusconi non è soddisfatto. Si vede il Premier in un video che si lamenta con il ministro della Difesa Ignazio La Russa durante la seduta a Montecitorio. 312 no all'arresto, 306 favorevoli. All'inizio viene contato anche un voto in meno dell'opposizione. In tutto 6 voti di scarto e 7 franchi tiratori nei banchi della maggioranza. Un margine troppo stretto per Berlusconi, che comunque si dice convinto di andare avanti. Come no, altro che, stiamo lavorando in pieno. Dal canto suo Umberto Bossi ribadisce che i franchi tiratori non sono nella Lega, mentre l'opposizione attacca. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori parla di un voto di scambio PDL Carroccio, mentre Enrico Letta risponde così sulla tenuta del governo. Io credo che a gennaio non arrivano, non arrivano a dicembre, ma secondo me non arrivano nemmeno la settimana prossima. Ed è polemica per l'assenza del ministro dell'economia Giulio Tremonti in aula. Marco Milanese si sarebbe sfogato con alcuni deputati PDL, ma poi smentisce a porta e il premier Silvio Berlusconi preferisce non commentare. Altra domanda? Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ministro dell'economia Tremonti dunque tirato in ballo, criticato, accusato da alcuni, nel frattempo era ed è a Washington per partecipare alla riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale. Arrivato nel primo pomeriggio di giovedì nella capitale degli Stati Uniti, il ministro è stato nella sede dell'FMI per cena con i ministri finanziari e governatori centrali del G20. Tremonti ha evitato i giornalisti che lo attendevano, ha fatto il suo ingresso da un'entrata diversa da quella da cui sono passati gli altri big, il presidente della BCE Jean-Claude Trichet, il governatore di Banca Italia Draghi, il segretario al tesoro americano Timothy Geithner, il commissario UE agli affari economici Olli Rehn. Insomma, i suoi collaboratori fanno sapere che l'unico appuntamento con la stampa a Washington è previsto proprio oggi alle 14.30 ora degli Stati Uniti, ore 20.30 in Italia. Poi il ritorno in Italia. Questo per quanto riguarda dunque il voto e la polemica legata al caso Milanese. Concludiamo questo blocco invece con l'altra inchiesta, con l'altra vicenda giudiziaria sulle prime pagine e non da questa settimana. Raffaella Calandra ci fa il punto sul caso Tarantini. La prima risposta era stato l'annuncio dell'invio degli atti a Roma. Poi la Procura di Napoli ha cambiato linea ed è passata al contrattacco rispetto alla decisione del GIP di trasferire nella capitale l'inchiesta sulla presunta estorsione al Premier. Con un'istanza allo stesso giudice e poi al riesame, i PM puntano a tenere sotto al Vesuvio l'inchiesta perché elementi nuovi, dicono, renderebbero poco chiaro dove sia stato consumato il reato. Ad esempio, è a Milano che viene conferito l'incarico all'avvocato Perroni di difendere Tarantini. Ma su questo la memoria di Berlusconi per i PM è lacunosa e inattendibile. Un'imprecisione che la procura definisce ricercata, perché se da una parte il Premier sembra ricordare perfettamente che le somme sono state erogate a Roma, dall'altra ai magistrati appare strano, visto anche che non si è fatto interrogare, che gli sfuggano gli importi e altre utilità destinate a Tarantini, come a dire che sono state date solo le informazioni valide per un trasferimento a Roma. A questo punto negli uffici partenopei è scontro aperto e sullo spostamento dell'inchiesta si pronuncerà venerdì il riesame e poi eventualmente la Cassazione. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Punto e a capo. E mentre il ministro Tremonti torna in Italia, noi in realtà torniamo proprio negli Stati Uniti, dove nonostante le pressioni da parte dei paesi occidentali e in primo luogo degli Stati Uniti, il presidente palestinese Abu Mazen ha dunque chiesto alle Nazioni Unite il riconoscimento dello Stato palestinese. Barack Obama, che nel suo intervento davanti all'Assemblea Generale aveva detto che uno Stato palestinese potrà nascere solo attraverso il negoziato, ha insomma provato fino all'ultimo a convincere Abu Mazen quantomeno a non rivolgersi al Consiglio di Sicurezza per richiedere una partecipazione piena della Palestina all'ONU, avvertendolo anche che gli Stati Uniti non esiterebbero a usare il loro potere di veto per bloccare una simile richiesta. Altro grande protagonista di queste giornate newyorkesi, questi giorni di assemblea generale, è stato il premier turco Recep Tayyip Erdogan, che ha conquistato letteralmente i riflettori anche a New York. Erdogan infatti è arrivato forte di una polemica che riguarda Cipro, che riguarda gli interessi economici della Turchia, ma anche di un ruolo che sembra emergere di portavoce dello scontento del mondo arabo musulmano nei confronti di Israele. Insomma, questo tutto per anticiparvi e dirvi che parliamo di Turchia questa sera in un approfondimento dedicato interamente al tema, 30 minuti in cronaca dalle 19:30 questa sera. Punto e a capo. Benedetto XVI in Germania. Questa è anche la settimana della missione del Papa, dunque nella sua terra, Papa bavarese in Germania, occasione per parlare del ruolo della politica e per affrontare naturalmente lo scandalo pedofilia. Sentiamo. Una lunga ovazione ha salutato l'intervento di Benedetto XVI al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, che per la prima volta ha ospitato un pontefice. Un discorso rivolto ai deputati tedeschi, ma naturalmente anche a tutti i rappresentanti del popolo nel mondo, a cui ha ricordato come il successo e il consenso non può giustificare la distruzione della giustizia. Richiama al ruolo della politica che ha visto accenti chiari anche nel telegramma al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, in cui ha auspicato per l'Italia un sempre più intenso rinnovamento etico, parole che sono suonate come un chiaro richiamo ad una maggiore moralità pubblica, tema di grande attualità da tempo. Nel corso della visita in Germania, Benedetto XVI ha fatto anche un richiamo forte al tema della pedofilia, molto sentito. Posso capire, ha detto, i motivi di chi lascia la Chiesa di fronte a crimini come gli abusi. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Benedetto XVI ieri è stato anche a Erfurt, dove ha pronunciato un vero e proprio elogio di Martin Lutero. Insomma, il Papa visita la città dove fu ordinato il monaco tedesco che nel 500 ruppe col papato e detto avvio alla più vasta riforma della storia del cristianesimo, e sottolinea l'attualità della sua fede in confronto al tiepido atteggiamento di molti credenti odierni. La maggior parte della gente, anche dei cristiani, dice Benedetto XVI, oggi dà per scontato che Dio in ultima analisi non si interessi dei nostri peccati e delle nostre virtù. E invece, ha aggiunto, il male non è un'inezia. Punto e a capo. Neutrini più veloci della luce, messo in discussione Einstein. Sembra uno strillone d'altri tempi, il titolo che accompagna la notizia scientifica della settimana. Allora, da Ginevra al Gran Sasso sono stati sparati i neutrini prodotti al CERN e sono arrivati prima della luce, di 60 nanosecondi. Insomma, superando in questo modo un muro considerato invalicabile dalla fisica. Migliaia di commenti, vi cito soltanto Margherita Hack, sarebbe una rivoluzione. Tutto questo grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori del CERN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, guidato dall'italiano Antonio Ereditato, che ha effettuato la misurazione sorprendente per tutti. Una misurazione che ovviamente non è stata fatta una volta, raccontano, abbiamo passato 6 mesi a rifare i calcoli, e Dario Autiero, responsabile dell'analisi di misurazione, dice che per giustificare la discrepanza sono stati presi in considerazione persino la deriva dei continenti e gli effetti del terremoto dell'Aquila del 2009. Siamo abbastanza sicuri dei nostri risultati, ha detto Ereditato, ma vogliamo che altri colleghi possano verificarli e confermarli. Insomma, così funziona la scienza. Complimenti. E per saperne di più, vi anticipo questa sera l'appuntamento con Mebius, quindi a partire dalle 20 con Federico Pedrocchi ed i suoi ospiti. Punto e a capo. Scrittura mon amour, una passione che per alcuni è davvero una predestinazione. A essere benessere si è parlato di questo tema, Nicoletta Carbone ne ha parlato con Duccio Demetrio, che è professore di filosofia dell'educazione e della narrazione all'Università di Milano Bicocca. Sentiamolo. La scrittura è una forma di aiuto, è una modalità per forse non per guarire, ma è una modalità che ci consente di superare o di affrontare i momenti difficili dell'esistenza. La maggior parte degli scrittori e delle scrittrici che io chiamo per diletto ha imparato a frequentare, a vivere questa passione proprio perché si trovava in momenti di solitudine, di disagio e di sofferenza. Quindi scrivere una forma di benessere. E ora, come di consueto in questa zona, in quest'ultima parte del nostro appuntamento, il punto della settimana televisiva e del cinema, ma oggi restiamo davvero sul piccolo schermo. Settimana calda per i palinsesti, la ripresa intanto di Porta a Porta, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa, alte le aspettative di Rai 1, sentiamo il direttore Mauro Mazza. La prospettiva più concreta è quella che Porta a Porta si confermi programma leader di approfondimento giornalistico in seconda serata. L'ambizione è quella di avere delle occasioni, una decina nel corso della stagione, da adesso a giugno, di prime serate di approfondimento, in parte programmate, in parte legate agli eventi che accadranno, speriamo sempre cose belle e edificanti per tutti noi. Tenta delle innovazioni, anche la scenografia cambierà, Vespa stesso rinnova il linguaggio in rapporto alle cose che accadono. Probabilmente immagino che ci sarà molta più attenzione al momento che stiamo vivendo in Italia e non solo, quindi crisi finanziaria, economica, impasse politica e in più anche cose divertenti di costume che Vespa sa cogliere come nessun altro in televisione. E ora Antonio Ricci, che lancia la 24esima edizione di Striscia la Notizia, riparte lunedì, ribadisce la sua natura di provocazione, dice: sono disposto a togliere le veline se i giornali del Gruppo Espresso decidono di non utilizzare più il corpo delle donne come attaccapanni. Insomma, la loro sorte è ancora in bilico. Loro pregano San Carlone De Benedetti affinché mandi in edicola la Repubblica delle Donne e in questa maniera le veline verranno salvate. Noi abbiamo lanciato questa sfida, se non ci sarà in edicola noi toglieremo le veline. Ma perché su Striscia non tramonta mai il sole? Non tramonta mai il sole perché non tramontano mai gli elementi da satireggiare, da prendere in giro e da commentare. Talmente vorticoso quello che succede che praticamente abbiamo anche un po' vergogna a dire che stiamo facendo un lavoro. In realtà noi arriviamo, cioè ci portano già come dei re magi tutti i doni. Ezio Greggio, che con Iacchetti condurrà Striscia, cerca di ripetere questo weekend l'exploit del suo box office 3D, dalla tenuta finora inaspettata. Questo weekend escono anche dei colossi come La pelle che abito di Pedro Almodóvar, L'alba del pianeta delle scimmie. Tra le nuove uscite, qui davvero siamo al grande schermo, ci sono anche altre proposte italiane: la commedia Mozzarella Stories di Edoardo De Angelis con Luisa Ranieri e l'interessante esordio in un lungometraggio di finzione del documentarista Andrea Segre, Io sono lì, presentato a Venezia alle giornate degli autori, storia di un amore interetnico. Sentiamo Andrea Segre. La presentazione a Venezia, così come le anteprime, sono state dei momenti che mi hanno restituito un film più ricco. L'attenzione che il pubblico ha dato al film, le risate, i silenzi, i momenti di ascolto che ho sentito nelle sale così piene di persone che hanno accolto il film, hanno fatto sì che io abbia rivissuto il film con un punto di vista nuovo, e questo mi è piaciuto molto perché il film sta diventando non solo mio ma di tutti, e questo spero che sia sempre di più, perché è quello che spero dai miei film, che i film aiutino le persone a conoscere, a incontrarsi, a porsi delle domande, e questo arricchisce anche me. Punto e a capo. Ed eccoci alla fine, dopo il consueto racconto della settimana del piccolo e del grande schermo a cura di Marta Cagnola, parliamo di calcio. La settimana del calcio, come lo sapete, è stata segnata dalla crisi dell'Inter, che dopo la sconfitta di Novara ha cambiato allenatore. Quindi via Gasperini, dentro Claudio Ranieri, che debutta in Nerazzurro proprio oggi pomeriggio a Bologna nell'anticipo. Allora, scontata la domanda che ieri ha aperto la conferenza stampa di Ranieri, neo allenatore dell'Inter, il suo passato di grande avversario di Mourinho. No, io non vorrei cancellare nulla, cioè io credo che nella storia dell'Inter sarà indelebile Elenio Herrera, sarà indelebile José Mourinho. Eravamo nemici, ma eravamo nemici anche per i media, per alimentare quelle polemiche, niente più, è un allenatore che ho sempre stimato. Ogni volta che ci siamo visti in campo, fuori, a Nyon, ci siamo sempre salutati con molto affetto. Tutto qui, insomma, fa parte del lavoro di ogni allenatore difendere la propria squadra. Questo dunque per il neo allenatore dell'Inter. Pronta la risposta, il messaggio in realtà dalla Spagna di Mourinho, che dice: io sono interista, non pseudo interista, voglio sempre che la squadra vinca, sono felice se vince e come interista auguro di essere felice a Ranieri come lo sono stato io, e sicuramente lui è stato molto felice. Bene, siamo davvero alla conclusione, non mi resta che darvi appuntamento per sabato prossimo con Punto a Capo, lasciarvi a GR24 e a tutta la programmazione del fine settimana di Radio 24. Un saluto a tutti.